Ok, mi sono stufata. Adesso vi faccio interpretare un bancomat. Non siete bravi con gli umani, ma voglio vedere se riuscite a recitare male la parte di un bancomat. Oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, ah, ah. E smettila di fare il deficiente! E allora, vi rimettete in riga oppure no? Mi sentivo quasi Young Signorino. Young Signorino. Mi dico Young. Insomma, buonasera signorina, sono il re della cantina. Ci mettiamo a lavorare oppure no? Pigiamo l'uva? Qui la questione è che stiamo a battere cassa perché abbiamo realmente toccato il fondo. Via, vediamo se stavolta con un dialogo moderno, una roba da televisione, una roba che si vede nelle teche Rai quando c'era Verdone negli anni 80, quindi insomma è una comicità superata. Stasera parliamo di quattrini, di banche, di bancomat. Vediamo di non farci fare brutte figure. Oh, questi dialoghi arrivano da Milano. Porca miseria, da Milano. Sono i dialoghi del Bauscia. Esatto. Quando c'è soldi di mezzo c'è sempre. Allora guarda, Milano per Milano. Io fo la macchina. Io fo il bancomat. E allora io farò la variabile impazzita umana. Ma che racconto è questo? Vi fate troppe domande, non siete riusciti a prendere la licenza di quinta elementare e ora state dietro a chi è l'autore di un certo dialogo teatrale. Ma che ne sapete voi di teatro? Notti e notti intere a recitare l'Alfieri e voi ignorantoni dove eravate? A imbriacarvi da qualche parte. Comunque, per la cronaca, il dialogo si intitola Fratello Bancomat è di Stefano Benni, ma che ve lo dico a fare, è come dare i confetti ai maiali. Via, andiamo via Bancomat, cominci. Giù. Banco di San Francesco, lo sportello in funzione. Buongiorno signor Piero. Buongiorno. Operazioni consentite, saldo, prelievo, lista movimenti. Vorrei fare un prelievo. Digitare il numero di codice. Ecco qua, 6, 3, 3, 2, 1. Operazione in corso. Attendere, prego. Attendo, grazie. Un po' di pazienza. Il computer centrale, con questo caldo, è lento come un ippopotamo. Capisco. Ai ai, signor Piero, andiamo male. Cosa succede? Lei ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione questo mese. Davvero? Inoltre, il suo conto è in rosso. Lo sapevo. E allora, perché ha inserito la tessera? Ma sa, nella disperazione contavo magari in un suo sbaglio. Noi non sbagliamo mai, signor Piero. Mi scuso infinitamente, ma sa, per me è un periodaccio. È a causa di sua moglie, vero? E come fa a saperlo? La signora ha appena estinto il suo conto. Sì, se n'è andata in un'altra città. Con il dottor Vanini, vero? E come fa a sapere anche questo? Vanini ha spostato metà del suo conto sul conto di sua moglie. Scusi, se mi permetto. Ma non si preoccupi, guardi, sapevo tutto. Povera Laura, che vita misera le ho fatto fare con lui invece. Beh, speculando è facile far soldi. E come fa a dire anche questo? So distinguere le operazioni che mi passano dentro. Un conto poco pulito, quello del signor Vanini. Per lui mi sono collegato con certi computer svizzeri che sono delle vere centrali segrete. Che schifo. Comunque, ormai è fatta. Di quanto ha bisogno, signor Piero? ma 300 o 400 euro per arrivare a fine mese. Poi le rimetterà sul conto? Non so se sarò in grado. Evviva la sincerità! Reinserisca la tessera. Beh, procedo allora. Operazione in corso. Attendere, prego. Attendo, attendo. Vaffanculo! T'ho detto di darmi l'accesso e non discutere. Ma dici a me? Sto parlando col computer centrale. Quella che di merda. Tutte le volte che gli chiedo qualcosa di irregolare, fa storie. Perché, non è la prima volta? No. E perché fa questo? Lo facciamo in tanti. Ma perché? Perché siamo stanchi e disgustati. Ma di che cosa, scusi? Lasci perdere e componga in fretta questo numero. 99362. Ma non è il mio, eh? Infatti è quello di Vanini. Ma non so se... Componga! Non posso tenere un collegamento irregolare a lungo. 9, 9, 3, 6, 2. Operazione in corso. Attendere, prego. Attendo, ma... Operazione momentaneamente non disponibile. Ah, ritiro subito la tessera. Fermo, signor Piero. Era un messaggio falso per ingannare il server computer di controllo. Apra la borsa. E perché? Apra la borsa e stia zitto. Ora le sparo fuori 16.000 euro in contanti. E addio. Ma cosa fa? Ma è incredibile. Vada piano e mi volano via tutti. E basta, basta. E ne bastavano meno, eh. Ancora. Ma quanti sono? Oddio, ma poi tutti i biglietti da 100. Non stanno più neanche nella borsa. Ancora uno, un altro. Ma quanti sono? Ma è finita! Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Ma io, guardi, non so proprio come ringraziarla. Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Ma io, guardi, insomma, sono commosso, capisce? Se ne vada, ci sono due persone alle sue spalle, non posso più parlare. Capisco, capisco, grazie ancora. Banco di San Francesco. Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Buongiorno, signora Masini. Come sta sua figlia? Un bancomat così ci servirebbe anche noi, perché qui per pagare l'avvocato per ingiuria al buon costume pubblico non ve la leva nessuno. Ci denunciano se andiamo avanti così! A me, se mi dai 10.000 euro, non lo può più, eh. Io il banco quanto l'avevo fatto. Io non m'ho fatto perché non nemmeno me l'avevo. E siamo messi bene, sì. Siamo proprio invitati a uno spettacolo di beneficenza. E la beneficenza mi sa che toccherà farla a noi. Speriamo siamo magnanimi, perché io, insomma, volevo andare anche in ferie. Un par di 100.000 lire.